Nessun luogo. Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatori, gentili ascoltatrici, ben ritrovati a Nessun Luogo Lontano, il vostro sguardo su ciò che accade al di fuori dell'Italia. Vi porgo anche i saluti da parte di Antonio Talia, Eleonora Aragona e Silvia Mannati, che sono in redazione, e Andrea Roccabella, che è in regia. E vi ricordo anche le coordinate per poter porre domande o commentare i temi che tratteremo quest'oggi. SMS al 349-238-6666, il numero vale anche per i WhatsApp, Twitter Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, Facebook, la pagina è Nessun Luogo Lontano, trattino Radio 24. Tanti temi che poniamo sul tavolo quest'oggi, vi sarà anche il tema immigrazione con una notizia che arriva dall'Australia, un po' se volete agli antipodi di Lampedusa, una storia di immigrazione fatta anche di violazione dei diritti umani, per quello è stato chiuso un centro di detenzione per i migranti, lì ci chiederemo se quel modello australiano funziona e se, come alcuni osservatori hanno auspicato, è possibile replicarlo in Europa. Aspetto anche i vostri commenti su questo al 349-238-6666, poi parleremo anche di Tunisia, ma intanto iniziamo andando in Repubblica Democratica del Congo. E torniamo in Repubblica Democratica del Congo perché molti messaggi che sono arrivati sia su Twitter che all'SMS mi sollecitavano sul tornare sul ruolo della missione ONU in Congo, la più lunga, la più costosa e la più corposa anche in termini numerici, che è dislocata appunto nel grande paese africano, il Congo, la Repubblica Democratica del Congo, che ricordo è vasto quasi quanto tutta l'Europa occidentale. In particolare ieri ci siamo occupati dei fatti che avvengono e stanno avvenendo a Beni, una città nel nord del Nord Kivu, al confine con l'Uganda. Lì manifestazioni popolari dopo un massacro avvenuto nel weekend in cui più di 50 persone sono rimaste uccise e la gente è scesa in piazza. È scesa in piazza puntando il dito contro, da un lato, l'esercito regolare congolese e le forze di polizia incapaci di fermare questi massacri attribuiti dalle autorità al gruppo ADF NALU, poi in realtà abbiamo capito che c'è una convivenza, secondo quanto denunciato da vari rapporti, e l'altro dito puntato era proprio contro la presenza dei caschi blu. Spesso questi attacchi vengono condotti con le basi dei caschi blu o le pattuglie dei caschi blu a poche centinaia di metri, ed è per questo che la popolazione, la società civile congolese ne ha abbastanza, virgolettando le loro stesse dichiarazioni, e appunto si interroga sulla utilità o inutilità della missione ONU in Congo. E ne approfitteremo per fare il punto anche su quello che è, ed è importantissimo, il quadro giuridico all'interno del quale si muovono queste missioni di peacekeeping, perché se, come dire, seguendo la pancia è facile dire, urlare all'inazione da parte dei caschi blu, poi è utile anche comprendere perché c'è questa inazione, perché non ci sono interventi o perché ci sono interventi. Vi ricordo che nel mondo vi sono più di 100.000 peacekeeper in 16 missioni diverse. Quest'anno l'incremento della spesa rispetto all'anno scorso è stato del 17%, con 8 miliardi di dollari in più spesi. Il budget, sempre per darvi un'idea dei numeri e delle dimensioni delle missioni di pace delle Nazioni Unite, è l'1,4%, pensate, del corrente budget per la difesa degli Stati Uniti. Per tornare al focus di oggi, la MONUSCO, che è la missione ex MONUC, adesso MONUSCO, la missione dei caschi blu nell'ONU, che è da 16 anni in Congo con circa 20.000 effettivi, quasi tutti militari, ha un budget di 1 miliardo e 300 milioni di dollari. We'll be right back. Allora, siccome molti ascoltatori, vi dicevo ieri, dicevano ma come si sa che le missioni ONU sono inutili, abbiamo cercato di partire da qua per tracciare anche un giudizio su quella che è la missione appunto storicamente più corposa, numerosa e lunga nella storia appunto dei caschi blu. Però prima di dare un giudizio è importante capire su che basi si muove, e su questo ci soccorrerà il professor Edoardo Greppi, che è professore di diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Professor Greppi, buongiorno, benvenuto a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Facciamo un passo indietro, quello che dovrebbe essere il finale lo facciamo subito. Un giudizio sintetico, se possibile, sulla missione dei caschi blu in Congo. È efficace, sì o no, secondo lei? Non ho la competenza per dare un giudizio, direi che risponderei con una provocazione, e cioè mi domanderei se questa missione durante i 16 anni che lei ha rievocato non ci fosse stata, quale sarebbe la condizione oggi di quel paese. Cioè il problema di fondo è che gli stati sono responsabili della sicurezza interna, sono responsabili del rispetto dei diritti umani, della protezione della popolazione civile. In casi come quelli della Repubblica Democratica del Congo è in qualche misura la massima organizzazione mondiale, l'ONU, a dovere sopperire alle carenze di uno Stato. Sì. E lo fa però con dei criteri che sono costretti in ogni modo a tenere conto di questo feticcio, di questo mito, come lo chiamava Luigi Einaudi, che è la sovranità dello Stato, lo Stato sovrano. Sì. Che quindi rifiuta interferenze, rifiuta ingerenze, rifiuta interventi esterni. L'ONU era nata per garantire pace e sicurezza, così dice la Carta dell'ONU del 1945, e per poter usare anche la forza contro uno Stato o all'interno di uno Stato. Sì. In realtà l'evoluzione politica dei primi decenni ha fatto sì che l'organizzazione dovesse in qualche modo virare su altri mezzi, su altre espedienti, e così è nato il cosiddetto peacekeeping, che ha dei grossi il più grosso limite è proprio quello che si fonda, e queste missioni di peacekeeping si fondano sul consenso delle parti in primo luogo, e il consenso delle parti non è l'unico presupposto. L'altro presupposto è che non si deve usare la forza se non in difesa, per legittima difesa del contingente e in difesa del mandato, e bisogna essere imparziali, così recitano i principi generali del peacekeeping. Chiarissimo. Quindi per, come dire, banalizzare, qua mi perdonerà, insomma, le Nazioni Unite, i caschi blu non possono entrare in un contesto senza il permesso dello Stato che li ospita, e ne possono fare tutto quello che vogliono, perché lì è il Consiglio di Sicurezza dell'ONU che detta i binari sui quali... Che dà loro un mandato, che è contenuto nella risoluzione istitutiva. Nei 16 anni che lei ha ricordato, le risoluzioni che hanno istituito le varie operazioni da Monuc in avanti sono state numerosissime, le ultime sono proprio di queste, 2013, 14, 15. Sì. E ciascuna di queste risoluzioni, che ha rango di decisione, quindi obbligatoria, stabilisce i limiti del mandato. Sì. E lo ha esteso, negli anni è stato esteso. All'inizio le primissime risoluzioni, quelle del 1999 e del 2000, erano limitate semplicemente a stabilire una missione di osservatori con pochi ufficiali. Addirittura la prima missione andò un ufficiale solo. Sì. Poi diventarono, mi pare, una trentina, poi una settantina, e adesso sono appunto 20.000 uomini. Sì. Per dare anche una dimensione storica, anche più recente, al cambio di mandato, effettivamente c'è stato un cambiamento ed è abbastanza recente, perché la forza di intervento rapido, la Force Intervention Brigade delle Nazioni Unite, che è quella che credo per la prima volta nella storia ma ha avuto compiti offensivi, quantomeno in Congo è stata la prima volta, è stata creata nel 2013, e questo perché a un certo punto una delle tante ribellioni, in particolare all'epoca era il movimento M23, foraggiato da Ruanda, guida Tutsi, diciamo così, per semplificare in maniera molto molto forte le cose, era riuscito addirittura a prendere la capitale del Nord Kivu, Goma, facendo fare una figuraccia non solo all'esercito congolese ma anche ai tanti peacekeeper, all'UN, ai caschi blu che erano proprio a Goma. Per alcuni giorni gli M23 avevano scorrazzato e avevano saccheggiato qualsiasi abitazione e caserma appunto a Goma e poi si erano ritirati volontariamente. Quindi fu uno schiaffo al quale anche il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dovette rispondere dicendo è ora di finirla, insomma, scusate ancora una volta il linguaggio un pochino prosaico. C'è un professore, però, professor Greppi, c'è un problema politico, nel senso che se il mandato è come dire, un apparato giuridico che dice cosa possono fare, regole di ingaggio, eccetera, però c'è una volontà politica dietro, per cui il Consiglio di Sicurezza dell'ONU dice adesso i caschi blu possono sparare, adesso non possono sparare. E come funziona? Quanto comanda la politica allora? La politica comanda al 100%. Se potessi dire di più del 100%, se non fosse un oltraggio alla matematica. Il Consiglio di Sicurezza è un organo politico, è l'organo politico per eccellenza, è stato concepito come una sorta di direttorio della politica internazionale, a fronte di un'assemblea generale che è un organo pletorico, appunto assembleare, 193 stati membri. Si fonda, si dice, sulla sovrana eguaglianza degli stati membri, quindi si fonda addirittura sulla finzione giuridica che gli stati siano tutti uguali. Però gli stati nel 45 volevano che fosse chiaro che qualcuno era più uguale degli altri, e oggi abbiamo un organo con 10 membri eletti con un mandato biennale, 10 stati eletti con un mandato biennale e 5 che sono permanenti. Sono permanenti non solo perché, come si dice tradizionalmente, sono i 5 che hanno vinto la seconda guerra mondiale. La Francia la guerra mondiale l'ha persa in poche settimane, non è quello il motivo per cui siede lì. Ovvero, certamente sono gli stati che hanno vinto la seconda guerra mondiale, ma sono anche quelli che avevano nel 1945 le maggiori responsabilità mondiali della conduzione della politica internazionale. Quindi in sostanza si voleva dire che l'Assemblea Generale rappresenta tutti su un piano di parità giuridica, è un organo quindi universalistico e egualitario, ma lo contemperiamo con un organo politico di tipo oligarchico, una sorta di direttorio delle potenze che deve stabilire i criteri e i mezzi con i quali si garantisce la pace e la sicurezza internazionale. Sì, quindi sì. È venuto fuori un organo che può decidere, ha un potere di decidere, mentre l'Assemblea Generale non può decidere, può solo raccomandare. Il potere ce l'ha quindi il Consiglio di Sicurezza, può decidere, ma decide secondo criteri politici e decide ogni volta sulla base di un consenso condiviso dai 5 grandi. Chiarissimo. Quindi basta che uno non sia d'accordo e la decisione non viene raggiunta. Pensiamo a quello che è successo in Libia nel 2011, sì, per cui il consenso c'era e fu deciso di usare la forza, e pensiamo a quello che sta succedendo dal 2012 in Siria, in cui invece questo consenso non ci sarà probabilmente mai e il Consiglio di Sicurezza non riesce a decidere un'azione. Chiarissimo. I criteri che presiedono a queste decisioni sono sempre, ovviamente, come diceva lei, politici. È la politica che decide, è il primato della politica. Il Consiglio di Sicurezza non è un organo giudiziario che stabilisca chi ha ragione e chi ha torto. Sì. Il Consiglio di Sicurezza decide una certa operazione sulla base di considerazioni dei suoi stati membri. Professor Greppi, al 349-238-6666 ci sono ascoltatori che ricordano un po' di fallimenti di inazione dei caschi blu, c'è chi ricorda la strage di Srebrenica, e l'inattività, l'ascoltatore dice dei caschi blu olandesi, non ricordo esattamente da che paese provenissero quei caschi blu, e dice l'ascoltatore avrebbero potuto difendere la popolazione ma hanno lasciato fare. Io aggiungo anche il caso ruandese nel 94, no? Però il problema non è ignavia, dice l'ascoltatore, in qualche modo punta il dito, no? Ma no, attenzione, ma se il mandato non prevede l'intervento, se non in casi strettissimi, lì purtroppo non ci possono fare nulla questi caschi blu. Distinguerei i due casi. Il caso del Ruanda era chiaramente così, nel senso che il mandato, c'è un libro terrificante scritto dal generale Romeo Dallaire, Shake Hands with the Devil, stringere la mano al demonio, in cui racconta la sua terribile esperienza, e fu l'unico, era il generale canadese che comandava le truppe delle Nazioni Unite in Ruanda, cercò di fermare il genocidio, ma gli ordini che venivano da New York erano di rispettare il mandato, e il mandato non prevedeva un intervento diretto. Molti paesi ritirarono i loro contingenti in quell'occasione. Srebrenica è un po' diverso, tant'è che lì c'era un mandato di difendere e proteggere la popolazione civile, ci furono poi negli anni scorsi diversi processi, soprattutto anche dinanzi a tribunali olandesi stessi, per stigmatizzare il comportamento dei caschi blu olandesi in quella vergognosa occasione. Sì. Però resta in tutte queste operazioni la sensazione che il mandato sia evidentemente il fondamento giuridico dell'operazione, ma ne sia anche chiaramente il limite. E questo dipende, dicevo, da considerazioni del tutto politiche. Poi ogni operazione fa un po' storia a sé. Sì, sì. Questa struttura, dal punto di vista strettamente giuridico, è vetusta? C'è la logica del mandato e tutto quello che ci ha spiegato fino adesso, vista la realtà contemporanea, vista le aree di crisi che sorgono ormai periodicamente in giro per il mondo, la struttura di peacekeeping andrebbe cambiata, secondo lei? Io non credo che la struttura del peacekeeping, intanto il peacekeeping è ovviamente un meccanismo che è stato inventato, congegnato come per il ripiego, perché la Carta dell'ONU prevedeva che l'organizzazione fosse dotata di proprie forze, messa a disposizione dagli Stati, messa a disposizione del Consiglio di Sicurezza dagli Stati. Il Consiglio di Sicurezza avrebbe voluto usare queste forze contro gli Stati o all'interno degli Stati per mantenere pace e sicurezza internazionale. Poi l'evoluzione, la guerra fredda, i veti incrociati, eccetera, eccetera, hanno reso inefficace il meccanismo. Ma se noi leggiamo il capitolo settimo della Carta, che è quello su cui si fonda anche questa missione in Congo, sì, vediamo che il meccanismo è congegnato bene, perché prevedeva appunto la stipulazione di accordi, la messa a disposizione di truppe, la costituzione di un comitato di Stato Maggiore composto dai capi di Stato Maggiore delle 5 potenze permanenti che avrebbe dovuto gestire queste operazioni, prevedeva modalità di finanziamento, insomma tutto questo è stato solo parzialmente realizzato. E soprattutto era previsto, il capitolo settimo prevedeva che queste forze venissero usate in casi di minaccia alla pace, violazioni della pace o atti d'aggressione. Questo caso del Congo, il Consiglio di Sicurezza l'ha qualificato minaccia alla pace, perché in effetti è una minaccia alla pace, anche se in larga misura sia un conflitto interno. Il meccanismo quindi in sé per sé, il meccanismo, io dico sempre, Michelangelo diceva, tutto nel marmo egli è, basta sapernelo trarre. Lei può dare a me lo scalpello e il martello che aveva Michelangelo, anche un blocco di marmo, io difficilmente tirerei fuori la pietà, nel senso che questi sono strumenti. Sì. È la politica che ha in mano gli strumenti. Sì. Gli strumenti possono essere efficaci o meno efficaci a seconda della politica e dell'uso che ne fa la politica. Nelle prime critiche degli anni, fin dagli anni 50-60, all'azione dell'ONU, l'allora sottosegretario generale delle Nazioni Unite, Lord Jebb, un diplomatico inglese, chiamato a rispondere ad alcune di queste critiche, rispondeva: attenzione, le Nazioni Unite sono uno specchio. Se gli Stati, quando vedono l'immagine riflessa nello specchio, agli Stati quell'immagine non piace, la colpa non è dello specchio. Certo. In realtà le Nazioni Unite sono quello che gli Stati hanno voluto che fosse. Chiarissimo, chiarissimo. Grazie al professor Edoardo Greppi, professore di diritto internazionale umanitario e tutela dei diritti umani all'Università di Torino. Grazie anche per queste 2-3 metafore particolarmente efficaci. Buona giornata, buon lavoro, professore. Grazie a lei e grazie a tutti, buongiorno. Alla fine la politica comanda, ci sono dei mandati, ci sono degli apparati, ma alla fine il martello, insomma, dipende come lo si usa. Questo è un po' il messaggio che il professore Greppi, esperto di diritto internazionale, voleva dare. A volte il martello, lo strumento, consentitemi di proseguire in questa metafora, ha funzionato, perché per esempio l'anno scorso, quando la brigata di intervento dei caschi blu dell'ONU doveva dare la caccia a un gruppo ruandese ribelle sempre nel Nord Kivu, ebbene ha posto un veto e ha detto no, a questo punto non ci muoviamo. Sapete perché? Perché Kabila, il presidente congolese, aveva messo a capo delle operazioni dell'esercito congolese due generali sospettati di abuso dei diritti umani, e lì insomma in qualche modo c'è stata un'indagine, c'è stata un'inchiesta, loro si sono mossi e hanno preso una decisione. E comunque è contro la politica che puntano il dito i tanti attivisti che avete sentito anche nella puntata di ieri, che vi invito ad andare a risentire se ve la siete persa. Su radio24.it trovate il podcast. La società civile, in particolare un'associazione, si chiama Lucia Congo, dovrebbe essere accolta da esponenti del governo congolese proprio nelle prossime ore, per parlare della situazione che si è venuta a creare. Questa è la parentesi, il là è stato una serie di messaggi che ci avete mandato al 349-238-6666, prima pagina tutta dedicata alle missioni ONU, in particolare in Congo. Adesso però cambiamo completamente argomento e cambiamo completamente continente, andiamo in Australia. Immigration Minister Peter Dutton says no refugees on Manus Island will be resettled in Australia after the announcement the detention centre in Papua New Guinea is set to close. We have been able to make sure that we can keep the regional processing centre arrangement in the form of Nauru. E dopo i titoli dati da Sky Australia sulla decisione della chiusura del controverso centro di detenzione per richiedenti asilo di Manus Island in Papua Nuova Guinea, siamo a nord dell'Australia ma molto vicini, avete sentito anche la voce del ministro per l'immigrazione Dutton, il quale ha ribadito che in nessun modo richiedenti asilo anche con titolo, quindi a cui è stato riconosciuto lo status, possono mettere piede in Australia, confermando la linea dura del governo australiano rispetto all'immigrazione. Vi dicevo centro controverso perché il campo fu aperto nel 2001 e assieme al centro di Nauru ospita circa 2000 migranti a rotazione. Nel 2008 era stato chiuso, nel 2012 con una nuova ondata di richiedenti asilo fu riaperto. Nel 2013, tre anni fa, Australia e Papua Nuova Guinea sottoscrissero un accordo, sentite bene, con cui il governo australiano si impegnava a pagare 309 milioni di dollari alla Papua Nuova Guinea, che a sua volta concedeva di ospitare il campo di detenzione sul proprio suolo. Poi vi furono vari episodi di cronaca anche drammatici, con rivolte all'interno del campo eccetera. E vari levati di scudi da parte ovviamente delle associazioni per i diritti di difesa dell'uomo, e l'ultimo, insomma, Amnesty ha puntato il dito, ha visitato il centro, ha protestato e alla fine c'è stata la decisione della chiusura. Il problema però qual è? Che abbiamo uno Stato sovrano che esternalizza, cioè demanda a un terzo Stato non solo la richiesta di diritto d'asilo ma anche l'espletazione di quel diritto, dicendo: guarda che anche se sei un rifugiato, ti riconosco come rifugiato, non puoi mettere piede sul mio territorio, te ne puoi stare se vuoi in Papua Nuova Guinea. Allora vi faccio sentire, poi introduco il prossimo ospite, intanto la voce di Kate Schweze, che è ricercatrice di Amnesty International per l'Asia e il Pacifico. L'abbiamo raggiunta pochissime ore fa, sentite che cosa ha scoperto quando ha visitato il centro di Manus Island. Sono andata con Amnesty International a visitare il centro sull'isola di Manus nel 2013 e nel 2014. Quello che ho visto è stata l'estrema disperazione delle persone che sono state mandate lì dal governo australiano e successivamente detenute nel centro. Le condizioni di detenzione sono davvero squallide. Le persone vivono in ambienti sovraffollati, dormono in letti a castello. Alcuni non riescono quasi a muoversi fra i letti. Nel dormitorio più grande ci sono oltre 120 letti a castello, stipati uno accanto all'altro. C'è un olezzo soffocante. Le persone hanno contratto alcune malattie che non possono essere curate in Papua Nuova Guinea, a maggior ragione a Manus. La Papua Nuova Guinea è un paese povero e non dispone di un'assistenza medica di qualità in grado di far fronte alle condizioni sanitarie dei migranti. In particolare, non ci sono psichiatri fissi nel centro che possano assistere i rifugiati che hanno subito traumi e torture. Experiences of torture and trauma 349 238 6666 per domande e commenti, sia gli SMS che i WhatsApp, mentre c'è chi, come Giulia, ancora con un po' di amarezza dice: vabbè, ma alla fine la politica siamo noi cittadini, li votiamo noi e quindi conta andare a votare. Beh, insomma, lì i meccanismi, come avete sentito dal professor Greppi, sono un pochino più complicati perché sono strutture sovrastatali, quindi ancora più distanti, se volete, dal voto di noi comuni cittadini. Invece Tonio, ad esempio, ci chiede di che nazionalità sono i migranti che arrivano in Australia. L'abbiamo chiesto a Kate Schweiz e sentite cosa dice. I migranti e rifugiati che arrivano in Australia provengono da vari paesi, la maggior parte da Siria e Afghanistan. Ci sono anche molti iraniani. In quantità minori arrivano migranti da Sri Lanka, Bangladesh, Myanmar. Qualche volta arrivano anche degli africani, ma dato che è un lungo viaggio, capita di rado. E sentite adesso quanto tempo rimangono i migranti nel centro di Manus Island. Non è mai esistito un piano chiaro sull'insediamento dei rifugiati che si trovano sulle isole di Manus o di Nauru. È stata un'invenzione venduta dal governo australiano. Quindi lo scopo era di detenerli per il periodo più lungo possibile, per poi costringerli a ritornare nel loro paese di origine. In alcuni casi può aver funzionato, ma la maggior parte delle persone che rimanevano nel centro sono state riconosciute come veri rifugiati. Nelle ultime due settimane la Corte Suprema della Papua Nuova Guinea ha dichiarato che i migranti che sono stati trattenuti a Manus per 3 anni o più sono stati detenuti ingiustamente per tutto quel tempo, ma nonostante questo non sono stati liberati. Dopo quel caso risolto è stato concesso ai migranti di muoversi un po' più sull'isola, ma in modo molto limitato. Comunque, ci sono state delle violenze da parte delle popolazioni locali contro i rifugiati, quindi rimane comunque poco sicuro per loro girovagare sull'isola. Nella seconda pagina, In nessun luogo lontano, vi stiamo raccontando la controversa e dibattuta e anche da molti accusata politica sull'immigrazione da parte dell'Australia. In verità c'è una parte anche politica e anche italiana che fa un plauso a questa politica. Sentite lo spot e prego di ascoltarlo con noi anche a Gianfranco Schiavone, membro del direttivo nazionale dell'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione. Dottor Schiavone, buongiorno, benvenuto Nessun Luogo Lontano. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Allora, ascoltiamo insieme questo spot piuttosto feroce che il governo australiano ha diffuso da parecchio tempo, che sostanzialmente dice: no way, non c'è speranza per voi che arrivate. The Australian government has introduced the toughest border protection measures ever. It is the policy and practice of the Australian government. Allora, dottor Schiavone, siccome alcuni commentatori in Italia invocano il modello australiano e dicono: vedete come funziona, vedete che loro non hanno il fenomeno dell'immigrazione, non sono invasi come noi, com'è possibile che uno Stato, l'Australia, esternalizzi, quindi con uno Stato terzo, che è la Papua Nuova Guinea, esternalizzi non solo la procedura di richiesta dell'asilo, ma anche poi eventualmente un insediamento? Perché loro dicono: anche se tu sei un rifugiato, anche se vieni riconosciuto come rifugiato, qua in Australia non puoi mettere piede. Com'è possibile questa cosa? Ah, francamente, innanzitutto va detto che il caso dell'Australia è un caso assolutamente estremo, come dire, condannato a livello internazionale moltissime volte, quindi non è... Qui parliamo di una situazione che per fortuna è una situazione, appunto, ripeto, estrema, ma questa deriva essenzialmente da un fatto che molti non hanno minimamente, diciamo, la percezione, cioè il fatto che molti ritengono che la Convenzione di Ginevra sullo stato dei rifugiati preveda, appunto, sia una convenzione che abbia anche un aspetto di carattere, per così dire, procedurale. Sì. Mentre in realtà la Convenzione di Ginevra, oltre che definire chi è un rifugiato, stabilire i diritti del rifugiato e prevedere il principio di non respingimento come fosse unica norma di procedura, per tutto il resto, su quali sono per l'appunto le procedure per chiedere e ottenere protezione, tace e in realtà rinvia alle innumerevoli, direi infinite, normative nazionali o delle diverse, chiaramente, stati aggregati, sì, o delle aree geografiche. Sì. Per fortuna da questo punto di vista la situazione europea, lo dico chiaramente, non potrebbe ripetersi una situazione come quella australiana, che pur nonostante alcuni, insomma, in maniera appunto estremistica invocano, sì, perché per l'appunto oltre chiaramente alla Convenzione di Ginevra esiste un diritto dell'Unione Europea, e vabbè, oltre che i diritti dei singoli stati e il rispetto chiaramente anche di una diversa tradizione giuridica, chiaramente. Sì, dottor Schiavone, stia lì perché c'è l'informazione finanziaria, poi ci spiega meglio questa cornice europea che impedisce di imitare il caso australiano. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun luogo è lontano. Ben ritrovati, questa è Nessun Luogo Lontano, pagina tutta dedicata all'immigrazione e al caso australiano che vive una nuova pagina. Perché? Perché il governo della Papua Nuova Guinea ha deciso di chiudere un centro di detenzione per migranti richiedenti asilo che era sull'isola di Manus Island, è stata chiusa dopo una serie di proteste e di inchieste e di report da parte di associazioni, tra cui Amnesty International, di cui vi sto facendo sentire la voce, in particolare appunto questa ricercatrice che si chiama Kate Schwetz. Siamo però anche col dottor Gianfranco Schiavone, che è membro del direttivo nazionale dell'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione, che stava iniziando a spiegarci come, benché evocato da alcuni sms al 349-238-6666, il modello australiano in Italia e in Europa non è replicabile. Dottor Schiavone, c'è una legislazione anche europea che dice che questa cosa non si può fare. C'è una legislazione europea, insomma, non soltanto una specifica norma, ma direi un insieme di normative che prevede che c'è un diritto del richiedente asilo di accedere al territorio dell'Unione Europea per presentare la domanda d'asilo. Questo è previsto sia indirettamente dalla Carta dei diritti fondamentali, la Carta di Nizza, sicuramente dalla Convenzione europea sui diritti dell'uomo e poi dalle specifiche direttive dell'Unione Europea, non ultima la direttiva sulle cosiddette procedure, che sì, appunto, al di là di ogni tecnicismo, appunto, ripeto, dice espressamente che le domande di asilo appunto devono essere esaminate, le domande di asilo presentate alla frontiera, nel territorio o addirittura nelle acque territoriali. Qualcuno ricorderà anche, spero che qualcuno ricordi anche i famosi casi dei respingimenti, no? In certo. Mare, purtroppo che furono condannati dalla Corte Europea, appunto perché l'Italia aveva il dovere, no, di soccorrere le persone, di non esporle a rischi, cioè il divieto di respingimento verso appunto luoghi in cui le persone, la cui vita e libertà potrebbe essere minacciata, e aveva l'obbligo di registrare le eventuali domande di protezione dei richiedenti asilo. Sì, cose che fatti che avvenivano, se non erro, nel 2006, era governo Berlusconi con governo Gheddafi dall'altra parte, e lì ci fu quella viziosa, benefica, perdonatemi il termine, ma insomma dough to death, per cui fondamentalmente Gheddafi chiudeva i rubinetti dell'immigrazione a seconda di quanto la politica italiana, come dire, fosse condiscendente nei confronti delle sue richieste. E un comportamento simile, fatte salve le debite proporzioni, lo abbiamo visto anche da parte del governo turco. Ecco, qualcuno, infatti, stavo per dire, potrebbe chiedersi allora com'è la vicenda oggi con la Turchia. Sì. Beh, innanzitutto, adesso non posso approfondire in breve tempo che abbiamo, ma ho detto che l'ARGI, ma non solo l'ARGI, ma anche Amnesty International, sostanzialmente tutte le organizzazioni che si occupano di difesa dei diritti dell'uomo ritengono che il cosiddetto accordo Unione Europea-Turchia, che tra l'altro non è neanche un accordo sul piano del diritto internazionale, è di fatto un'intesa non scritta, no? Sì. Quindi, insomma, non è un caso che dietro questo accordo ci sia tutto sia molto sfumato. Sì. Beh, diciamo così, questo accordo non è legittimo, non risponde, non rispetta i criteri fondamentali del diritto dell'Unione e non rispetta soprattutto la direttiva procedure, perché per l'appunto perché in questo caso la Turchia non è un paese terzo europeo sicuro, perché attenzione, è vero che una domanda d'asilo potrebbe non essere esaminata e quindi una persona può essere rinviata in un paese terzo, ma a quali condizioni? A tre condizioni fondamentali: la prima è che il paese in oggetto abbia ratificato la Convenzione di Ginevra, la applichi integralmente, disponga di una procedura di asilo appunto con standard equiparabili a quelli appunto della procedura prevista dalla direttiva dell'Unione, e abbia ratificato la Convenzione europea sui diritti dell'uomo. Solo qualora ricorrono queste tre misure è possibile che la domanda di asilo non venga presa, deve essere presa, ma viene esaminata dal paese dal quale la persona proviene. Sì. Nel caso riteniamo con molti argomenti che vedremo cosa diranno le giurisdizioni superiori, nei cui confronti sono già incardinati alcuni procedimenti, che la Turchia non possa ritenersi non rispetta questi requisiti, e quindi l'accordo è un accordo in sé profondamente illegittimo. Grazie mille Gianfranco Schiavone, membro del direttivo nazionale dell'Associazione Studi Giuridici per l'Immigrazione. Buona giornata e buon lavoro, Schiavone. Arrivederla. Grazie. Allora, tantissimi messaggi al 349-238-6666 e credo che toccherà tornare su questo tema immigrazione, perché c'è chi dice ad esempio che basta stupidaggini, il 99% non ha diritto allo status di rifugiato. Adesso vi diamo anche qualche numero in più, ma certamente non so da cosa esattamente questo ascoltatore tiri fuori questa cifra del 99% che non ha diritto allo status di rifugiato. È certamente errata. Adesso facciamo due ricerche e le confermiamo invece il dato. Poi c'è invece chi, domanda interessante questa di Massimiliano, perché i barconi non arrivano anche in Spagna e in Francia? In Spagna ci arrivavano, quella rotta poi è stata chiusa anche in seguito a una serie di respingimenti. In Francia non ci arrivano perché è troppo lontano, molto banalmente le coste italiane sono comunque quelle più vicine. 349-238-6666, vi faccio sentire ancora una volta la voce di Kate Schwetz di Amnesty International, perché lei ricapitola come avviene il viaggio dei migranti che dal sud-est asiatico arrivano in Australia. Sentite. Molte persone si affidano dei trafficanti perché non hanno altri modi di scappare dal loro paese. Non possono prendere un volo diretto per l'Australia perché non possono ottenere il visto. Quindi prendono voli per la Malesia o per l'Indonesia. E quando sono in Indonesia saltano a bordo di barconi. Ma ci sono anche persone che per raggiungere l'Australia affrontano dei viaggi pericolosi e molto lunghi da Bangladesh, Vietnam e Sri Lanka. Quello che è successo molto recentemente è che il governo australiano è stato costretto dalla Papua Nuova Guinea, cioè proprio quel governo a cui l'Australia aveva chiesto aiuto per esternalizzare le richieste di diritto d'asilo, insomma, parole povere, una sorta di scarica barile, così il centro di Manus Island è stato chiuso. Sentite cosa dice la ricercatrice di Amnesty riguardo proprio alla chiusura del centro. Se siamo felici che il governo australiano sia stato costretto dalla Corte Suprema della Papua Nuova Guinea a chiudere il centro, vogliamo però che venga definita una data certa e un piano per smantellare la struttura. Non è una soluzione valida trasferire i migranti a Nauru. Nello stesso mese Amnesty International e Human Rights Watch sono stati sul posto e hanno constatato gravi abusi dei diritti umani. Nauru è un'isola molto piccola che non dà ai migranti la possibilità di rifarsi una vita. Ci sono stati gravi casi di molestie fisiche e alti livelli di autolesionismo. L'unica vera opzione per il governo è riportare i migranti in Australia e trasferirli in comunità. Alla maggior parte di queste persone è stato riconosciuto lo status di rifugiato. Non ci sono ragioni valide, quindi, per cui l'Australia non possa accettarli. Allora, per rispondere all'ascoltatore che diceva il 99% non sono rifugiati, il governo australiano in dati ufficiali ammette che il 98% invece sono rifugiati. Questo per darvi un'idea della situazione, ma d'altra parte leggendo le provenienze è evidente, no? Ci sono siriani e afghani, quindi come dire, sapendo da dove fuggono è evidente che è molto facile che la richiesta d'asilo venga accolta. 349-238-6666, abbiamo già il traffico? Sì, allora andiamo sulle strade italiane e poi andremo invece su quelle tunisine. Nessun luogo è lontano. قاعدة نشوف في المزير عمالة تفيل الجهل تغاب خلانا من نقيض النقيض وين الحرية اللي جريوا عليها الرجال فرحة ما تمت وين الاستقلال. E andiamo in Tunisia sulle note di Bouthaina El Alouadi, che è una rapper tunisina, si fa chiamare Medusa, questo è il nome d'arte, che mette in rima e segnala tutta la vitalità di questo genere musicale. E abbiamo scelto questa introduzione un po' per segnalare un contrasto che di fronte a un'economia tunisina che arranca, complice un turismo in caduta libera, lo sapete, anche a causa degli attentati, tassi di disoccupazione altissimi, beh, insomma, volevamo quantomeno avere una colonna sonora che ispirasse un po' di fiducia. Piccola fotografia tunisina, la tratteggiamo, la scattiamo con due ospiti. Una è Laura Guazzone, professore associato di storia contemporanea del mondo arabo alla Sapienza. Professoressa Guazzone, buongiorno e benvenuta a Nessun Luogo Lontano. Grazie, buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. E l'altra è Stefano Torelli, La Tunisia contemporanea, Il Mulino è il suo ultimo libro, ricercatore ISPI. Torelli, buongiorno e benvenuto, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, ben ritrovati anche a voi. Allora, credo che siano due i punti di partenza dai quali, insomma, potrebbe prendere la mossa la nostra discussione. Da un lato abbiamo Sirte, e nomino Sirte che sta cadendo, è caduta, insomma, perché uno degli scenari evocati dagli osservatori che avevamo ospiti pochi giorni fa era: attenzione, perché militanti dell'ex Stato Islamico, oramai speriamo libico, potrebbero dirigersi verso il sud della Libia o verso la Tunisia. E qua si apre uno scenario di piccoli nuclei che in territorio tunisino potrebbero, come dire, rimettere radici e riminacciare la stabilità del Maghreb. E l'altro invece è: abbiamo un nuovo governo. Un nuovo governo, sì, su una vecchia crisi economica. Torelli, la solleciterei su questa parte qua, sull'aspetto sicurezza, diciamo. Allora, quanto la caduta di Sirte può preoccupare il governo tunisino? Beh, direi chiaramente, non volendo essere troppo allarmisti, insomma, però direi abbastanza. E ci sono dei motivi anche oggettivi per cui si dice questo, insomma. Innanzitutto vi è da considerare come, secondo alcune fonti dell'intelligence, sia tunisina sia fonti libiche, la gran parte dei cosiddetti, insomma, affiliati all'ISIS o cosiddetti ISIS in Libia sono stranieri, e sì, di questo si parla di un 50, addirittura 60% di tunisini. Quindi l'ipotesi o lo scenario che, qualora le roccaforti dello Stato Islamico in Libia dovessero cadere, allora molti guerriglieri potrebbero pensare di ripiegare verso la Tunisia, potrebbe essere purtroppo uno scenario possibile per due ragioni, appunto: uno per motivi tattici o strategici, e uno anche proprio perché è da lì che vengono molti di questi guerriglieri. E una prova, diciamo, generale di questo scenario, ahi noi, c'è stata già nel marzo scorso, sì, quando, a seguito di un bombardamento di droni statunitense contro una base logistica dello Stato Islamico a Sabrata, cittadina della costa libica, a seguito di questa operazione, dopo soltanto pochi giorni vi è stato una vera e propria tentativo, insomma, di guerriglia per il controllo di questo paese, questa cittadina Ben Guerdane, che è un paese che è in Tunisia ma al confine con la Libia, e in molti hanno messo in correlazione questi due fattori, cioè nel momento in cui appunto le roccaforti dello Stato Islamico in Libia cadono, evidentemente molti dei guerriglieri che vengono dalla Tunisia provano a ripiegare proprio verso la Tunisia. Quindi questo purtroppo è uno scenario plausibile, e le autorità tunisine infatti lo sanno benissimo, ed è per questo che comunque negli ultimi mesi si sta cercando di monitorare la situazione e anche di rafforzare, insomma, proprio il confine con la Libia, e in questo tra l'altro vi è anche collaborazione con intelligence e forze militari di altri paesi occidentali, europei e Stati Uniti. Certo, che hanno tutto l'interesse ovviamente a che la situazione non scappi di mano. Professoressa Guazzone, questo è un po' il quadro sicurezza, ma poi c'è il quadro economico a cui facevo riferimento. Pochi mesi fa la Banca Mondiale ha stanziato un prestito da 5 miliardi per rivitalizzare un'economia che è assolutamente depressa. Queste sono le sfide che il nuovo primo ministro deve mettere sul tavolo. Habib Essid è succeduto a Youssef Chahed dopo anche una strana sfiducia, no, che è stata fatta dal Parlamento. Riesce in grande sintesi, come dire, a farci comprendere che cosa è accaduto nella politica tunisina negli ultimi giorni? Ma dunque, premetto che io sono una storica e dunque guardo all'attualità su cui lei mi sollecita, ma appunto in una prospettiva sostanzialmente storica. Sì. E allora, appunto, per quanto riguarda la questione economica della Tunisia, dobbiamo ricordare una serie di fatti che, appunto, che hanno a che fare con un quadro più largo, non necessariamente legato all'attualità, sì, più immediata. Uno è che, appunto, che l'economia tunisina è un'economia che si regge sostanzialmente sulle esportazioni, come sappiamo, verso il mercato europeo, l'Europa occidentale, e che ha cominciato ad andare in crisi proprio dal 2008-2009, quando cioè è iniziata a arrivare anche in Europa gli effetti della crisi finanziaria globale. Con questo cosa voglio dire? Voglio dire che tutte le misure, pure importanti, che può adottare un governo tunisino e un'imprenditoria tunisina che, non dimentichiamo, è estremamente vivace e anche politicamente coinvolta, la corrispondente della Confindustria italiana appunto in Tunisia, sì, è uno dei quattro attori che ha avuto il premio Nobel per aver consentito una transizione pacifica nel paese. Ecco, nonostante gli ottimi tecnocrati che sono stati o che possono essere ora nel nuovo governo, i margini di manovra per un risanamento dell'economia tunisina nel quadro dell'economia, appunto dei suoi rapporti economici con l'Europa e con questa Europa che conosciamo essere appunto in crisi, sì, non da oggi, sono molto stretti. Questa è la realtà dei fatti, e anche le grandi istituzioni internazionali sì, concedono prestiti, ma non accettano, diciamo, politiche per esempio di sostegno al reddito nelle zone più sfavorite della Tunisia, che sono quelle, le zone interne, in particolare delle regioni interne occidentali, sì, al confine con l'Algeria. Quindi i problemi della Tunisia, come dire, il gioco di equilibrio che i governi tunisini devono fare non dipende tanto appunto dalle scelte che sono tutto sommato abbastanza condivise in materia di politica economica, quanto da un più ampio quadro appunto di relazioni mediterranee, sì, che non danno molto spazio purtroppo. Ci sono aiuti europei, aiuti americani, prestiti che però spingono sempre il paese verso un'economia iperliberista che in questo momento forse non è la ricetta giusta, forse dovremmo concedere appunto meno austerità anche, sì, alla Tunisia. Interessante la prospettiva storica applicata sull'attualità, insomma il vecchio adagio che la storia è poi maestra di vita si rivela ancora una volta valido. Andiamo invece più sulla stretta attualità, lo facciamo con Stefano Torelli. Abbiamo parlato nella seconda pagina Nessun Luogo Lontano di immigrazione in particolare. Non ci sono più partenze dalla Tunisia ormai da un bel po', da alcuni anni. C'è stato da un lato una stretta anche giuridica, nel senso che sono multe, c'è l'arresto, prigione credo fino a 25 anni se non erro, o 15 anni e poi però che cosa è successo anche nei rapporti tra Tunisia e Europa, Stefano Torelli? Beh, dal punto di vista dell'immigrazione, diciamo, sì, chiaramente assistiamo veramente a un calo totale, se non quasi appunto a uno stop proprio delle partenze. Sicuramente adesso l'immigrazione è più regolamentata, ma soprattutto appunto, cioè, contano due fattori. Allora, il fatto è anche qui, diciamo, devo dire, come la professoressa Guastone, io ho questo difetto di anche io di essere in formazione uno storico, quindi guardo un po' ai cicli, sì, insomma, che, sì, sono accaduti, però anche qui ricordiamo che la gran parte, o almeno negli ultimi anni, l'ondata più massiccia, diciamo, che è arrivata dalla Tunisia in Europa, ma soprattutto quindi in Italia, risale al 2011 ed, sì, era proprio l'anno delle cosiddette, sì, primavere arabe, sì, quindi motivazioni chiaramente di carattere forse in quel momento anche molto più politico, se vogliamo, che economico. Non a caso nel 2011 in Italia la nazionalità che ha avuto più ingressi, insomma, è stata quella tunisina, appunto. Sì. Dopodiché, appunto, vi sono state delle regolamentazioni e soprattutto oggi vi sono delle rotte alternative che sono molto più percorribili. Cioè, oggi è molto, banalmente, è molto più facile, per quanto vi siano comunque tutte le difficoltà del caso, però è molto più facile da un punto di vista anche, diciamo, giuridico, legale, lì dove appunto un aspetto legale manca, partire da porti come quelli appunto delle coste libiche o in alcuni casi anche dall'Egitto che dalla Tunisia, ed, sì, è per questo quindi che i flussi hanno preso proprio delle altre direzioni, e in più appunto i giovani tunisini direttamente evidentemente stanno emigrando di meno rispetto a qualche anno fa, proprio perché insomma, potenzialmente ci sono delle prospettive di miglioramento e di crescita anche in casa. E qui ci ricolleghiamo a quanto si diceva prima, però appunto al paradosso o comunque alle contraddizioni di un paese che, seppur politicamente o a livello di potenziale, possa essere un paese rispetto ad altri della zona che insomma ha delle prospettive rosee sicuramente, dall'altro lato vi sono dei problemi così strutturali, così forti dal punto di vista economico, sì. E parlo per esempio delle disuguaglianze interne fortissime, sì. Del problema della disoccupazione giovanile e di quella dei laureati, sì. Che peraltro, mi permetto di interromperla, non è soltanto le zone interne fuori dalle città che a cui faceva riferimento la professoressa, ma anche io ricordo, insomma, ho fatto parecchi reportage a Tunisi e ci sono delle zone della città, della capitale, che insomma vivono il problema della disoccupazione in maniera molto, sì, molto, molto pesante, ecco. Esatto, soprattutto appunto la disoccupazione di forza lavoro teoricamente qualificata, questo è un grande problema, cioè la Tunisia è un paese in cui negli anni, nei decenni insomma, si è avuta storicamente questa fiore all'occhiello del sviluppo tunisino, diciamo, sì. Anche a livello sociale è stato l'educazione, questo ha prodotto però che oggi abbiamo tanti giovani laureati che però, e quindi diciamo una domanda di lavoro che non incontra un'offerta di lavoro che ancora invece non è adeguata al livello, certo. Qualitativo dell'educazione. Certo. A me molto, insomma, è molto curioso sotto alcuni punti di vista, è anche un po' preoccupante insomma il fatto che in Tunisia esista addirittura un sindacato apposta dei giovani disoccupati laureati. Sì, è molto indicativo. Stefano Torelli, grazie mille, ricercatore ISPI, ricordo il suo libro edito dal Mulino, La Tunisia contemporanea, grazie mille, buon lavoro. La rogazione per lei, professoressa, sinteticissima, dobbiamo chiudere, 30 secondi, con uno slogan: è l'unico paese che ha vissuto la primavera araba, l'ha lanciata, se mi perdonerà questo slogan, ed è l'unico che sta avendo una vera transizione democratica, sì o no? Sì, transizione democratica, sottolineiamo transizione non democratica, nel senso che c'è un processo che va verso un sistema più inclusivo, più rappresentativo e che può raddrizzare certe diseguaglianze che non sono solo nei diritti politici, come si diceva, ma anche in quelli sociali. Sì, senz'altro c'è una transizione che va in quella direzione, però non usiamo il termine transizione democratica come è corrispondente a democrazia acquisita. Abbiamo detto transizione, però su questo sì io la lascio. Grazie mille alla professoressa Guazzone, professoressa associata di storia contemporanea nel mondo arabo alla Sapienza. Buona giornata, buon lavoro. Di corsissime i titoli di coda, via. Con i quali ringrazio i miei ospiti, ringrazio Silvia Malnati, Eleonora Ragona e Antonio Tali in redazione, Andrea Roccabella in regia, l'appuntamento questa sera ore 21 per la replica, domani ore 16, ultima puntata della settimana, quando di nuovo nessun luogo sarà lontano. Un saluto intanto da Giampaolo Musumeci.